Durante la prima visita a Soweto, avevo visto la casa di Mandela. Era fatta di mattoni rosso scuro, con una recinzione pure di mattoni e un giardino roccioso sul davanti. Avevamo appuntamento con Winnie Mandela. Quel lunedì mattina entrammo dall'ingresso principale, dopo aver superato uno dei due grandi cancelli. Mandela non abitava nella casa, ma si avvertiva la sua presenza ispiratrice, e la casa appariva orfana del suo padrone. Io e la persona che aveva organizzato l'incontro ci mettemmo a sedere, e quel semplice gesto di attesa conferì un tocco regale all'ingresso di Winnie Mandela. Era difficile non rimanere colpiti nell'averla di fronte. La donna che avevi visto in innumerevoli fotografie, in tanti umori diversi. Una donna oggi in un certo senso scavalcata dai grandi cambiamenti avvenuti in Sudafrica. Era ancora piena di passione politica, ancora vicina alle paure provate ai tempi del pericolo. Non avete idea di che cosa volesse dire allora portare il nome di Mandela. Voleva dire arresti e interrogatori. Erano i tempi in cui le persone sparivano o erano uccise dalle forze di sicurezza per il solo fatto di essere membri dell'ANC. Fu a Soweto nel 1976 che la rivoluzione prese la svolta decisiva. È qui che è cominciato e io vivo ancora qui. Non posso immaginare di lasciare la mia gente per andare a stare in un quartiere di lusso. Era un'allusione indiretta alla gigantesca statua di Mandela innalzata in una piazza della Johannesburg ricca. «Una statua ridicola», disse. «Va ricordato che il Mandela che entrò in carcere era un rivoluzionario e il Mandela che ne uscì predicava la pace e il compromesso. Il metodo più sicuro per svigorire una persona è commercializzarla. E ci sono riusciti. L'uomo che andò in prigione non avrebbe mai permesso questa commercializzazione». Quando parlava di Mandela, non usava il nome di battesimo, Nelson, e il cognome lo pronunciava con due inflessioni distinte, una per il Mandela rivoluzionario, una per il Mandela del dopo. Disse: «Rimasi malissimo quando andò a ritirare il premio Nobel con il suo carceriere de Klerk. Non aveva fatto niente per la sua liberazione. Parlammo della Commissione per la Verità e la Riconciliazione. Il suo intento era quello di sanare le divisioni razziali del paese». Ma Winnie Mandela era sprezzante. Disse: «Si dimentica che per oltre 40 anni i neri avevano vissuto come non persone. Quella della Commissione per la Verità e la Riconciliazione non è stata un'idea realistica. Ha riaperto ferite non rimarginabili. Venivi a sapere di tutte le atrocità, dei metodi e degli strumenti della morte dei tuoi cari, come e dove erano stati uccisi, cosa era stato fatto a loro e ai loro corpi. Come si possono perdonare o dimenticare cose del genere? Questa idea, questa favoletta, è venuta in mente all'arcivescovo Tutu. Quando Tutu venne qui, gli dissi chiaro e tondo che non avevo intenzione di chiedere scusa per lavare la coscienza altrui e davvero non ero minimamente pentita di quello che avevo fatto. Gli dissi, a lui e agli altri membri della commissione, che se si trovavano qui, nel mio salotto, lo dovevano esclusivamente a quelli come me. Era stata la nostra lotta, quello che avevamo fatto ed eravamo stati disposti a fare, a regalarci questa libertà. Avete ascoltato un brano estratto dal libro La maschera dell'Africa, di Vidya Darnay Paul, edito da Adelphi. L'abuso e la deregolamentazione sembrano essere diventati la norma all'interno degli enti pubblici. Proprio su questi temi si è aperto un acceso dibattito da quando il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha identificato gran parte dei dipendenti pubblici come fannulloni. In questo brano, estratto dal libro Fannulloni di David Pierluigi, il ministro si scaglia contro i dipendenti degli enti lirici, definendoli parassiti. Era l'11 settembre del 2009, quando dal palco di un convegno a Gubbio, in Umbria, il ministro Brunetta si scagliò contro una particolare categoria di dipendenti pubblici, i dipendenti degli enti lirici. I rubinetti del Fondo Unico dello Spettacolo vanno chiusi. A tutti i parassiti dei teatri lirici, ai finti scenografi, ai finti orchestrali che suonano poco e poi vogliono i sussidi pubblici. A questi dico a lavorare. Gente che non ha mai lavorato per il bene del paese, anzi che non ha mai lavorato. Ecco, questa Italia la trovo leggermente schifosa. 340 milioni di euro di risorse pubbliche per il 70% destinate a pagare le spese degli oltre 5.600 dipendenti a tempo indeterminato previsti in pianta organica, oltre 100 milioni di euro di deficit accumulati tra il 2004 e il 2008, erosione progressiva del patrimonio netto iniziale, in alcuni casi più che dimezzato, produttività ai minimi termini. Queste le cifre della crisi della lirica italiana. un male che ha origini lontane e che si è incancrenito dopo la riforma di Veltroni, che tra il 1997 e il 1998 ha trasformato gli enti lirici in fondazioni. Una privatizzazione fallita che ha mantenuto il peggio del pubblico impiego e introdotto il peggio del privato, compiuta sulla base di una cultura liberale mal masticata e ancora peggio digerita dall'ex segretario della FIGC. Dopo 10 anni, solo la Scala di Milano è riuscita a beneficiare dell'apporto dei privati, che partecipano con 15.412.000 euro al bilancio del teatro, quasi la metà del contributo statale di 33.310.000 euro e circa il 30% in più rispetto agli 11 milioni di euro che provengono dagli enti locali. L'Opera di Roma, ad esempio, riceve un fiume di denaro pubblico grazie ai 26.333.000 euro di fondi statali e oltre 17 milioni di euro dagli enti locali e raccoglie solo 3.320.000 euro dai privati. Il ministro dei beni culturali, Sandro Bondi, consapevole di questi squilibri e dello stato di crisi della lirica che ha portato al commissariamento di 5 dei 14 teatri lirici nazionali nell'ultimo lustro, ha messo a punto un decreto legge per cercare di limitare le spese per gli enti lirici. Ma questi, più di altri enti pubblici, contano una miriade di sigle sindacali che raccolgono a volte solo pochi orchestrali, pochi musicisti, in grado però di bloccare una prima per avere un aumento di indennità. Resistenze sindacali che hanno prodotto scioperi da Palermo a Trieste, da Torino a Bari, fino a Catania, tanto da far saltare concerti e opere costosissime. Il decreto di Bondi, infatti, andrebbe a intaccare una giungla contrattuale e retributiva sviluppatasi a dismisura a fronte del mancato rinnovo del contratto nazionale dal 2003, con aspetti distorsivi e privilegi che appaiono ormai insostenibili nel contesto di una difficile congiuntura internazionale, soprattutto se messi in relazione a una produttività talmente bassa da apparire umiliante nel confronto europeo. Solo la Scala di Milano riesce a fare oltre 300 alzate di sipario in un anno, tutti gli altri teatri sono bene al di sotto delle 200. Le produzioni liriche, poi, sono ai minimi termini se paragonate all'Opera di Parigi, al Liceo di Barcellona, alla Staatsoper di Vienna o alla Royal Opera House di Londra. Certo, queste realtà possono godere di finanziamenti statali ben maggiori dei teatri lirici italiani. Tuttavia, nessun paese in Europa sostiene ben 14 fondazioni liriche come avviene in Italia, ma concentra le risorse nelle poche e spesso uniche eccellenze di cui gode. Forse questi problemi meritano ben altra risposta rispetto agli scioperi, alle barricate e ai funerali della lirica inscenati ovunque in Italia. Servirebbe, di fronte alla proposta del governo, un confronto costruttivo, capace di portare migliorie a un provvedimento che il ministro dei beni culturali, Bondi, ha presentato come un punto di partenza, non un testo blindato. Se questo non avverrà, ben presto la lirica italiana, gli enti lirici, rimarranno quello che sono, stipendifici, mortificante per le tante eccellenze artistiche e tecniche che comunque ci sono, vi lavorano con passione, talento, orgoglio e dignità. Mi è capitato di conoscere Antonio Fiumefreddo, ex sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, uno dei templi della lirica mondiale. Dico ex perché alla fine è stato costretto a lasciare l'incarico, sostiene, a causa delle resistenze del sindacato alla sua volontà di cambiamento. Certo è che un ente lirico, seppur regionale, come il Bellini di Catania, è l'emblema di quello che sono divenuti negli anni i teatri lirici, autentici uffici di collocamento. Il Bellini conta ben 454 dipendenti e qui si annidano le cose più assurde. Ad esempio, nell'ente lirico regionale ci sono in pianta organica, pagati tutto l'anno, ben 4 giardinieri, quando nel teatro non c'è neanche una piccola aiuola. L'orchestra non provava per una buona parte del mese, cosicché i musicisti potevano dedicarsi alle lezioni private, continuando a essere pagati dall'ente. Veniva pagata l'indennità per usura dello strumento quando si facevano dei concerti all'aperto. Fiumefreddo affermava poco prima delle dimissioni: «I fannulloni che in questi anni hanno succhiato denaro dalle casse del teatro stanno giocandosi il tutto per tutto pur di non perdere privilegi e impunità, ma io agisco facendo l'interesse della mia città e non posso tollerare che ci sia gente che incassa lo stipendio non lavorando. Ho chiesto al presidente del Consiglio Comunale di darmi la possibilità di poter documentare in consiglio, in seduta pubblica e teletrasmessa, il malaffare che ho trovato, respinto e denunciato in teatro». Chi vuole opporsi alla pulizia e alla efficienza lo faccia pure, ma purché sia chiaro che ci sono dei mascalzoni che si oppongono a persone per bene. Oggi al Bellini c'è un commissario straordinario e sarà ancor più difficile aumentare la produzione e la produttività dei dipendenti in un ente commissariato. Visto che le stagioni di opere e concerti vanno pianificate almeno un anno prima e tra una stagione e l'altra, che hanno conosciuto più bassi che alti per la produttività, a guadagnarci sono stati solo i dipendenti pubblici del Bellini che in questi anni hanno avuto lunghi mesi di inattività. Avete ascoltato la lettura di un brano estratto dal libro Fannulloni di Davide Pierluigi, edito da Newton Compton. L'azione di magistratura e forze dell'ordine contro l'andrangheta si fa sempre più forte. Apre squarci importanti sull'organizzazione e sulle collusioni col mondo politico e imprenditoriale. Nelle scorse settimane sono stati arrestati 10 appartenenti al clan della Piana di Gioia Tauro, un consigliere regionale in carica del PDL e addirittura un capitano dei carabinieri che avvertiva gli 'ndranghetisti sulle indagini in corso. Lo Stato, scrive Mimmo Cangemi sulla Stampa, si è mostrato. Ora tocca a noi cittadini affiancarlo, senza eroismi, con piccoli gesti di ordinaria legalità. Ma per molti questo Stato rimane ancora un nemico. Sul fronte 'ndrangheta si fa sul serio. Insperati spiragli d'azzurro squarciano l'orizzonte cupo e il sole si apre una breccia. Sono freschi di giornata gli arresti di 10 appartenenti ai clan della Piana di Gioia Tauro. Sono accusati di aver preteso una mazzetta del 3% dalla Condotte S.p.A. e dalla Impregilo S.p.A. per i lavori autostradali. È di pochi giorni fa l'arresto di un consigliere regionale in carica, del PDL, Santi Zappalà, già sindaco di Bagnara, per associazione mafiosa e per corruzione elettorale. Assieme a lui altri candidati, non eletti, di entrambi i fronti. È fresco fresco anche l'arresto di un capitano dei carabinieri per collusioni con la potente cosca dei Lo Giudice. Il servitore dello Stato gli avvertiva di indagini, perquisizioni, mandati di cattura, facendoci grano. Altrettanto freschi, la ribellione al racket da parte di 2 imprenditori di Gioia Tauro, con tanto di denuncia che ha portato a 8 arresti nella cosca Piromalli. Tutti successi che si aggiungono ad altri ottenuti di recente da magistratura e forze dell'ordine. E dal governo. Ci tiene a prendersi il merito il ministro Maroni e io ce lo metto, sebbene venga da chiedersi come e quanto ci azzecchi. Il caso Zappalà insegna che l'andrangheta sempre muove i passi in direzione di chi annusa vincitore. È un fatto su cui nulla si può, se non attendere che cessi per consunzione, per la civiltà e i buoni costumi che prevarranno, che dovranno prevalere prima o poi. La conseguenza? Umiliazioni su umiliazioni per questa terra di Calabria, dove a tradire ancora una volta la politica, che dovrebbe essere lo strumento del riscatto e dell'emancipazione. L'arresto di un capitano dei carabinieri mostra che sono finiti i tempi in cui, per conservarsi verginelli, bastavano giustificazioni del tipo «Io ho rubato solo una corda, non potevo immaginare che a essa fossero attaccati la scrofa, i maialini e il verro». Che esistessero simili collusioni con l'andrangheta non è notizia che faccia sbarrare gli occhi. Lo si sapeva da sempre. Fa però ben sperare per il futuro che siano comparsi i ferri ai polsi e che la legge abbia finalmente trovato un pentito di peso, uno che sa e che parla. Chissà quanti hanno già preparato valigie frettolose e fatto perdere traccia di sé per paura delle sue rivelazioni. Tendo ad attribuire alla nuova efficienza delle istituzioni la novità della coraggiosa denuncia dei 2 imprenditori contro la cosca di 'ndrangheta più potente d'Italia e più intoccabile per meriti di paura. Sono pensieri che mi saziano l'animo, mentre dal mare di Palmi mi dirigo verso il mio paesino in Aspromonte, lungo una strada ripida e tortuosa che cambia direzione su bruschi tornanti. Pensieri che non durano molto, si infrangono sul lampeggiare delle macchine che incrocio. È giorno pieno e luminoso, eppure una su 3 mi usa la cortesia di un veloce gioco con i fari. Senza che ci si conosca. È una scena che si ripete immutata da decenni. È il modo per avvisare che più su ci sono gli sbirri, il nemico, che c'è un posto di blocco, a scanso di una multa, di qualcosa da nascondere, di altro peggio. Simbolismi dell'era motorizzata. Simbolismo era pure il sedile di guida ribaltato sullo sterzo delle vecchie utilitarie a 2 sportelli. Indicava che non era macchina da poter violare. Il padrone apparteneva alla Fibbia. Ora, non è che i lampeggiatori siano 'ndranghetisti. Semplicemente mi mettono in guardia dallo Stato, chiunque io sia. Schiumo rabbia. Vorrei invertire la marcia e raggiungere quegli amici per dire loro che non so che farmene di simili gentilezze, che mi hanno appannato la certezza di un futuro di civiltà intravisto più vicino, che preferisco una multa, anche ingiusta, a una complicità che ci mostra ancora infettati di 'ndrangheta, che, adesso che lo Stato si è mostrato, tocca a noi cittadini affiancarlo, con piccoli gesti di ordinaria legalità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Ma lo Stato resta nemico», a firma di Mimmo Cangemi, pubblicato sulla Stampa di giovedì 23 dicembre.